11 testimoni dicono tutti di aver sentito 3 colpi. I colpi esplosi da Gia sono 2. Tutti questi elementi conclamano che Astarate siano stati in 2. 30 anni fa l'attentato a Giovanni Paolo II. Il Papa polacco nel frattempo è diventato beato, ma su quegli spari si allungano ancora misteri e nuove ipotesi. A Storiacce i protagonisti delle inchieste. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto sabato alle 13.15 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.